Allora, eccoci qua, sempre dal Next Emerson Clarida del Festival della Letteratura. Siamo anche in diretta su Radio Wombat, forse, se funziona tutto. E, seconda presentazione di questo festival. E, chissà, boh, il volume, vediamo. E seconda presentazione, questa presentazione invece. Anche questa volta non abbiamo il libro, quindi dobbiamo andare un po' a immaginazione, perché anche cioè, la prima presentazione abbiamo fatto non aveva, cioè, aveva poche copie, questa volta ne abbiamo ancora meno perché ce ne abbiamo. Mi piace questo sottofondo di nero, buio. Va bene. Va bene, dai, fa atmosfera, d'accordo. Non so se a te va bene. E siamo qua con Davide Sisto, il libro che presentiamo è Porcospini digitali, vivere e mai morire online di Bollate e Boringhieri. In realtà diciamo che sarà una chiacchierata che parte un po', prende spunto dal libro, però poi magari si estenderà anche oltre il libro, come un po' spesso sta succedendo a questo festival di letteratura. E Davide Sisto, ora presentazione, magari poi entri meglio te nei dettagli, però diciamo che potremmo dire tanatologo e ti occupi spesso del tema della morte e di affini, ma anche di culture digitali, culture cyborg e insomma e affini anche lì. Quindi, questo libro in realtà vorrei partire inizialmente proprio dal titolo perché è la cosa che personalmente mi ha affascinato di più, perché fa riferimento al dilemma dei porcospini di Schopenhauer e così ti chiederei quindi di partire da proprio il titolo perché forse ci fa entrare un po' meglio nel tema e in quello che vorremmo dire oggi e quindi partire proprio da questa metafora per poi andare a indagare il resto. Sì, si sente. Innanzitutto, grazie per l'invito. Mi fa molto piacere essere qui con voi a questa edizione di questo festival. Sì, il titolo di questo libro è un titolo un po' particolare, nel senso che riprende questo dilemma del porcospino di Arthur Schopenhauer, che l'aveva elaborato a metà dell'Ottocento, in cui lui fondamentalmente immaginava un gruppo di porcospini che in un momento in cui faceva molto freddo, d'inverno faceva molto freddo, per il freddo sentivano il bisogno di avvicinarsi gli uni con gli altri per riscaldarsi, per non morire assiderati, ma man mano che si avvicinavano le spine reciproche generavano del dolore fisico per cui dovevano riallontanarsi. Allora poi avevano di nuovo freddo e di nuovo si riavvicinavano, ma le spine li spingeva nuovamente ad allontanarsi. Allora Schopenhauer dice che questo movimento di vicinanza e di allontanamento andava avanti fino a quando non trovavano una moderata distanza reciproca. E lui utilizzava questa metafora per dire che questo è un comportamento tipico degli esseri umani che hanno bisogno di stare insieme e di fare gruppo, ma gli esseri umani tendono a sviluppare delle caratteristiche relazionali assolutamente pessime e mediocri, per cui quando ci si avvicina troppo, poi si prova dolore e si cerca di allontanarsi, e allora anche l'essere umano fondamentalmente ha bisogno di trovare una giusta distanza reciproca, in modo tale da essere vicini, ma nemmeno troppo. Poi Schopenhauer era molto pessimista e sosteneva che chi era in grado di sviluppare abbastanza calore da solo era molto meglio. E a me questa cosa mi ha fatto sorridere perché lui utilizzava il termine di tenere proprio la distanza, keep the distance, diceva. E questa cosa, io questo libro l'ho scritto in riferimento alla pandemia e ho pensato che in fondo durante la pandemia abbiamo propriamente, non solo durante la pandemia, ma soprattutto durante la pandemia, abbiamo noi oggi che abbiamo le tecnologie digitali e che estendiamo la nostra vita quotidiana, tendiamo nelle nostre relazioni in ambito digitale a fare esattamente questo. Da un certo punto di vista i social, i luoghi che frequentiamo ci spingono ad avvicinarci gli uni con gli altri, ma al tempo stesso tendiamo, una volta che siamo vicini, a non saperli usare, a creare delle situazioni di grande difficoltà relazionale, per cui occorre trovare una distanza reciproca in un periodo in cui i corpi poi fisici di per sé, e questo era l'altro aspetto che si unisce un po' ai porcospini digitali, non potevano stare vicini, perché i corpi più si avvicinavano più potevano appunto diffondere il virus che abbiamo vissuto, ed era un virus mortale. Quindi diciamo che questa metafora mi serviva un po' per evidenziare questa trasformazione in corso, ma anche per mettere in luce, questo è l'aspetto poi legato poi allo sviluppo del libro, che noi siamo stati i primi esseri umani, una pandemia, i primi esseri umani che hanno affrontato una pandemia, che si sono trovati in una situazione decisamente particolare. In tutti i libri che raccontano le storie delle pandemie, raccontano tutti che in una prima fase gli esseri umani sono sempre stati costretti al lockdown, ovviamente non si usava quel termine in altre epoche storiche, però alla distanza, al non stare vicini, a isolarsi. Noi siamo stati i primi esseri umani che, isolandoci fisicamente, stando chiusi nelle nostre abitazioni, abbiamo avuto, potremmo dire, dei corpi digitali che hanno continuato a svolgere quelle attività comuni che non potevano essere svolti fisicamente, con tutti i pro e i contro che questo poi ovviamente determina. Sì. E per esempio, questo effettivamente è stato più evidente durante la pandemia, però, come dicevi, accennavi, non soltanto durante la pandemia, e quindi mi interesserebbe magari cercare di approfondire in che senso questa distanza, questa giusta distanza, questa distanza media, viene ricercata attraverso le nostre vite digitali, chiamiamole così, nel senso che effettivamente da un certo punto di vista ci avviciniamo. Anche prima, quando abbiamo parlato di disabilità, è stato detto a un certo punto dalle autrici la tecnologia è un modo che ci ha permesso di avvicinarci ad altre persone che effettivamente altrimenti avremmo avuto lontane, però è anche vero che spesso ti allontana questa tecnologia, perché in qualche maniera è un tipo di rapporto chiaramente diverso rispetto a quello corporeo, materiale, e a volte questa giusta distanza tende al farsi bastare il rapporto solo digitale, e quindi in fondo si torna indietro sul medio, non è più una distanza media, ma tende più alla distanza in realtà. Sì, allora, questo per risponderti un po' su questo punto, metto in luce, poi magari su questo poi ci entriamo anche meglio successivamente, però questo dà un po' il quadro delle mie attività. Io da tanti anni, io sono un filosofo, lavoro all'Università di Torino, però, e non solo, però generalmente, oltre all'attività diciamo accademica, ho sviluppato tutta una serie di attività extra accademiche legate al tema della morte, nel senso che lavoro nell'ambito delle cure palliative, nel sostegno al lutto, cioè faccio parte nell'ambito diciamo tanatologico di una serie di persone, di figure professionali che cercano di riportare la morte all'interno del mondo in cui viviamo, perché c'è un tabù, perché c'è una rimozione e perché appunto oggi si sta cercando di rompere questo tabù facendo, potremmo dire, formazione, o cercando di scendere a patti con la nostra fragilità esistenziale e con la nostra mortalità. E questa è una premessa, la faccio perché nei vari libri che ho scritto, nelle varie ricerche che ho svolto, ho spesso sottolineato la positività, per esempio, dei social, e in questo un po' si collegava alla relazione precedente, che in qualche modo sopperiscono una mancanza. Facciamo un esempio, una tipologia di essere umano che si trova molto isolato è quello, per esempio, di chi scopre di avere un tumore e di colpo, dal momento che ha un tumore, nella dimensione offline viene fondamentalmente isolato, diventa un malato, una delle cose classiche che si dice, che esce dal club dei vivi per diventare un malato, le persone che gli stanno di fianco non sanno come comportarsi, i segni della chimioterapia spaventano, la società iperproduttiva non accetta persone che si presentano con delle fragilità e quindi vengono ulteriormente marginate. In quel contesto i social permettono, come in fondo veniva detto prima, a chi sta affrontando quel percorso molto delicato della propria vita di esporre per esempio i segni della chimioterapia, cercando in qualche modo di creare comunità attorno a qualche cosa che manca offline. Oppure un altro esempio, il lutto, noi siamo i primi esseri umani dalla seconda metà del Novecento ad aver visto l'individualizzazione dell'elaborazione del lutto. Fino a un passato, diciamo fino alla fine dell'Ottocento, prima delle guerre mondiali, diciamo, il lutto era qualcosa di collettivo, di sociale, le persone lo affrontavano insieme. Noi siamo abituati che fondamentalmente ce lo dobbiamo affrontare da soli. Ci ritroviamo al funerale, i datori di lavoro ci danno 3 giorni fondamentalmente di permesso e poi sono cazzi tuoi, perché quella sofferenza lì fatela passare. La cosa classica che si dice, lo spettacolo deve andare avanti, fatti forza e via dicendo, con tutti i problemi che invece questo comporta. E anche in quel caso lì i social offrono, per esempio, una cosa che a me mi colpisce, ad esempio su Facebook c'è una pagina che genitori che hanno perso un figlio ventenne per un incidente stradale, cioè si creano dei piccoli gruppi attorno a dei lutti specifici che uniscono chi si trova da solo. E questo secondo me ad impatto è una cosa positiva, perché evidenzia un bisogno e le persone tramite gli schermi creano quello che manca nella dimensione offline. Certamente, e su questo sono d'accordo con l'incontro precedente, questo è un po' un palliativo, nel senso che se quello può dare forza, se per dire a forza di vedere per esempio i segni della chimioterapia esposti potremmo forse un giorno scendere a patti con quell'immagine e quindi non avere più quell'imbarazzo che abbiamo spesso in queste società fortemente individualizzate, dall'altra parte sono palliativi, perché poi quel tipo di comunità mediata può generare, appunto, il concetto di palliativo secondo me è utile, dà una specie di diminuzione momentanea del dolore, ma non risolve il problema, perché ovviamente se tutto resta mediato dagli schermi e però poi non ci sono effetti nella nostra vita di contatto sociale, cambia poi poco. Aggiungendo il fatto, ed ecco le spine degli sporcospini che ritornano, che spesso la mediazione degli schermi genera dei comportamenti assolutamente irrispettosi, per cui poi le persone tendono a scrivere delle cose terribili a persone che stanno affrontando situazioni di enorme fragilità. Adesso parlando a random, pensiamo al caso adesso di questa Giulia Cecchettin, quello che non è successo online, oltre al sostegno che gli viene dato, ma i comportamenti terrificanti delle persone che insultano la famiglia, che dicono... E quello è il problema che oggi è faticoso da affrontare, ed ecco la vicinanza, ma dall'altra parte le spine. Che se da un certo punto di vista la mediazione degli schermi e i luoghi online evidenziano delle mancanze, queste mancanze sicuramente vengono un po' sopperite, ma poi manca tutto un lavoro necessario, che è quello comunitario, su cui si lavora ancora molto poco. E forse anche perché, come dicevi, abbiamo dovuto sopprimere l'idea della morte dalle nostre vite, anche l'idea della fragilità dalle nostre vite, e quindi in questo effettivamente mi veniva in mente, lo scrivi anche, lo dici molto bene, come forse i nostri corpi digitali, le nostre vite digitali ti danno un po' l'illusione, non so quanto illusione e quanto realtà, di superare la tua fragilità materiale, fisica, corporea, e quindi anche la tua finitezza, il fatto che a un certo punto, per forza di cose, l'essere umano deve morire, deve deperire, e attraverso un continuo esporsi e vivere in corpi che non sono prettamente fisici, in qualche modo ci illudiamo o cerchiamo di come dire, di sconfiggere questa fragilità. Non so se poi questa cosa effettivamente è un più appunto un'illusione o se invece in qualche modo avviene. Sì, il fatto, diciamo che l'elemento secondo me importante da evidenziare, adesso in generale ormai abbiamo tutti abbastanza superato, al di là dei Galimberti di turno, dei Crepè di turno, che ci sia una distinzione tra reale e virtuale, la smaterializzazione, tutti questi concetti che erano già vecchi negli anni 90, quando prima dicevi che appunto interessante al cyberpunk, già in quell'epoca questa suddivisione era assolutamente obsoleta, e però vabbè, leggiamo questi discorsi e sappiamo che ormai questa cosa è superata. D'altro canto, il fatto che noi oggi potremmo dire che siamo degli esseri umani ibridi, perché appunto abbiamo una corporeità fisica, una corporeità digitale, e viviamo una vita segnata dall'influenza anche di quello che facciamo online, dall'altra parte la grande differenza tra l'offline e l'online è che tutto quello che facciamo online viene registrato. La registrazione ovviamente ha un ruolo anche forse implicita, non voluto, non so se sia voluta in relazione alla morte, però ovviamente ciò che viene registrato è automaticamente eterno, se non eterno, perché poi c'è l'obsolescenza tecnologica che è da tenere in conto, però comunque mantiene un suo prolungamento che va oltre la durata biologica della nostra presenza psicofisica. E quindi il fatto che non ci sia una coincidenza tra la durata della vita biologica e quella della vita digitale, perché quello che facciamo viene registrato, ovviamente produce quel tipo di sensazione del raggiungimento dell'immortalità. In fondo, a pensarci, i transumanisti che negli anni 80 e 90 sostenevano che saremmo diventati immortali facendo l'uploading della nostra mente in oggetti non corporei, non fisici, hanno in fondo anticipato un po' quello che succede, perché noi in fondo creiamo, ci sono tanti termini, dei cloni digitali, dei doppi digitali che ci sopravvivono una volta che siamo morti. Ma e lì entra un po' in gioco l'illusione che anche tu sottolineavi, questo prolungamento della vita digitale è un prolungamento che appunto manca di sostanza, perché in fondo l'elemento che definisce l'umano è anche questo, il fatto che noi siamo esseri anche proprio fragilmente esistenziali, siamo esseri che appunto hanno una fragilità costitutiva. Questo prolungamento è un prolungamento che sta molto ai margini, che in fondo ci razionalizza, ci fa sopravvivere attraverso queste ripetizioni che hanno poi delle incidenze soprattutto in chi rimane, in chi fondamentalmente deve elaborare una perdita, ed ecco che quello di nuovo intercetta in una maniera un po' particolare un dolore umano. E infatti le società, ne parlavamo prima anche dialogando prima, le società private che in qualche modo permettono questa sopravvivenza digitale non sono dei benefattori per chi fondamentalmente deve elaborare una perdita, ma sanno che il dolore di una perdita è un aspetto molto delicato per l'umano e cercano fondamentalmente di guadagnarci economicamente sopra. Questo è un aspetto su cui oggi bisogna molto fare molta attenzione, perché appunto poi quando c'è di mezzo il dolore e la sofferenza siamo tutti più fragili, siamo tutti più ricattabili, e ovviamente questo è molto piacevole per chi deve in fondo trae dei guadagni dai nostri dati. E che tipo di di presenze ci sono, cioè che tipo di presenze trasferiamo in questo mondo, in questa sorta di mondo ultraterreno che è il digitale. Nel senso, tu parli di zombie, per esempio, no? Di Dead Man Walking, perché effettivamente anche proprio come strumento tecnico il digitale è una riduzione per forza di cose, proprio tecnicamente è una riduzione di un'informazione che deve venire ridotta per poter essere trasportata in una, e usufruita in un altro, con un altro mezzo. Quindi anche noi, in qualche maniera, se ci trasferiamo nel mondo digitale, che sia il cloud, siano i social, che sia, in qualche modo evidentemente operiamo una riduzione, cioè la macchina ci costringe a una riduzione di noi stessi, della nostra identità. E quindi in realtà è vero che in qualche modo questa identità ci sopravvive, ma che tipo di identità rimane? Che cosa rimane di noi? Perché io mi immagino che effettivamente questo è un problema che non si pone solo adesso con la tecnologia, perché comunque anche prima il famoso, come dire, anche lì topos del classico del sopravvivere alla morte grazie alle mie gesta eroiche, per esempio. Ma anche quella è una riduzione di un essere umano che in fondo viene ricordato solo per un aspetto, forse anche finto, o comunque sia quantomeno un riassunto di quel che era. Però adesso con questo tipo di tecnologie non solo il ricordo di chi rimane opera questa trasformazione, ma anche noi stessi scegliamo di mettere alcune informazioni in rete, altre no magari, e quindi diamo un'immagine che forse a volte è quella che vogliamo che resista, a volte magari no, è più involontario, però non è la molteplicità di noi stessi che rimane. No, questo soprattutto la cosa che hai detto inizialmente, secondo me è molto importante di dire che in fondo, e questo è il collegamento tra il passato e il presente odierno, e l'attuale presente, in fondo il grande problema dei morti è che una volta che muoiono, che quando si muore non si ha più voce in capitolo sul modo di rimanere nel mondo, e siamo completamente nelle mani dei vivi. E in fondo anche noi a livello scolastico, o comunque quando leggiamo dei libri sulle persone morte, non sapremo mai se quello che abbiamo letto e corrisponde veramente alla realtà, o se appunto è una rappresentazione. Adesso mi viene da sorridere, ma adesso che è morto e tutti siamo stupiti di questa cosa, perché se doveva essere immortale, è morto Silvio Berlusconi, sappiamo che a breve avremo delle rappresentazioni di Silvio Berlusconi come una specie di santo e benefattore dell'umanità, perché tanto capiterà questo. Mi sa che è già capitato. Sì, sì, e quindi, ma soprattutto le generazioni più giovani che non hanno vissuto l'epoca berlusconiana avranno delle narrazioni che chi invece ha vissuto quell'epoca si metterà le mani nei capelli. Però... E questo è un punto, e ovviamente il digitale non fa che enfatizzare questo aspetto, per cui già da vivi tendiamo generalmente, anche in maniera non, ovviamente non lo facciamo con cattiveria, poi io ho un approccio nei confronti del digitale neutro, nel senso che mi piace sottolineare gli aspetti positivi e negativi, cioè non riesco ad avere una visione solo negativa, e quindi anche il fatto dell'esposizione che noi facciamo sui social, quando leggo è soltanto il narcisismo, l'egocentrismo, secondo me quel tipo di lettura è molto riduttiva, perché in fondo è vero, c'è quell'aspetto, però ciascuno di noi è naturale che tenda a dover voler mettere in luce degli aspetti per cui vuole essere più appetibile, ma lo facciamo da sempre. Io mi ricordo quando andavo al liceo, i fighi della scuola si mettevano in mostra, cercavano di mettere in mostra delle caratteristiche specifiche, perché tanto facciamo così. Quindi quello è ovvio che è un aspetto. Il problema è quando questo poi appunto rimanendo ad libitum, e appunto rimane quando appunto noi moriamo e resta tutto online, questa cosa qua può avere delle incidenze negative già normalmente appunto sui social media, se chi rimane, rimane comunque condizionato dal tipo di immagini selezionate, dal tipo di iscritti che ci sono, ma ancora di più, e questo se ne parlava appunto prima di questo intervento, quando entra in gioco anche l'intelligenza artificiale. Io nel libro menziono già delle cose particolari sull'intelligenza artificiale che interviene nel rapporto tra la vita e la morte, ma un anno fa, questo è un aspetto più che a me ha molto colpito e che colpisce l'immaginario, Alexa ha dichiarato che con un solo minuto di registrato è in grado fondamentalmente di imitare la voce delle persone, e hanno fatto vedere, per dimostrare questo aspetto, un bambino che tramite Alexa dialoga con la nonna morta. Alexa sono 60-70 euro, quello che è, quindi è un prodotto che fondamentalmente ha la portata di tutti, e ormai nel mondo ci sono più le persone che hanno Alexa di quelle che non ce l'hanno. Ecco, certo che ci si ritrova in una società in cui dialoghiamo con i morti tramite Alexa. Innanzitutto, questa riproduzione del dialogo si basa appunto su quello che abbiamo condiviso online, che è una piccola porzione di una multi-identità. Quindi fondamentalmente magari noi scriviamo sui social, adesso il primo esempio che mi viene in mente, una persona credente che si vergogna di dire che è credente, quindi vuole mostrarsi online più come maggiormente nichilista, adesso la prima cosa che mi viene in mente, resta ovviamente la sopravvivenza come questa forma di nichilismo, mentre questa persona invece era credente, quindi manca quell'elemento che sta dietro alla complessità dell'identità. L'ambiguità. E di conseguenza si rischia di estendere, rendere ancora più complessa questa sopravvivenza assolutamente letteraria, fantasiosa del morto, e i vivi continuano a dialogare tramite una società che appunto guadagna su questo dialogo con qualche cosa che lontanamente ci ricorda, ma che di fatto ci rappresenta una piccolissima porzione di quello che siamo stati. No, io condivido con te l'approccio nel non demonizzare la tecnologia, e anzi conoscerla per anche farla propria quando serve e non farsene dominare. E mi viene in mente, per esempio, in questa difficoltà nel definire la propria identità nella rete o comunque nel digitale, no? E quindi in questa non riconoscersi magari in una riduzione, però c'è anche diverse cose positive, diverse opportunità interessanti, perché per esempio il fatto di poter scegliersi varie identità con cui mostrarsi e con cui avere relazioni anche è un qualcosa anche di estremamente liberatorio. In fondo lo è stato per molte persone e lo è ancora per molte persone. Io ho molta più paura, per esempio, quando invece si forzano le persone a presentarsi con un'unica identità, un nome e cognome, un'identità ben precisa che deve essere sempre quella. E invece a me piace più immaginare un mondo digitale, un mondo tecnologico, dove invece io posso sfruttare la possibilità di giocare anche, sperimentare tra le varie identità e avere anche varie relazioni con persone che altrimenti magari con cui avrei più difficoltà a avere relazioni, perché questa cosa effettivamente soltanto col corpo, soltanto con una materialità, a volte è più difficile, se ne ha più paura. E quindi a questo punto di vista mi sembra molto interessante. Allo stesso tempo, mentre parlavi, mi veniva in mente l'esempio degli idol giapponesi, cioè qui dei vocal idol giapponesi, che sono non sono intelligenze artificiali, sono dei prodotti di fatto, dei software che cantano e sono cantanti in Giappone, e che in realtà sono qualcosa di assolutamente non umano in toto, sono software di fondo, però hanno un loro pubblico, un pubblico enorme di persone che di teenager fondamentalmente che le adorano, che vanno intorno a questa cosa, si creano varie comunità. Mi ha molto colpito, studiando un po' questo fenomeno, che la cosa non si ferma mai al digitale, nel senso che poi a un certo punto c'è uno sfogo nella materialità, nel corpo, perché comunque sia a un certo punto queste comunità si incontrano, anche solo le comunità dei fan. È stato creato dopo un po' la possibilità di fare questi mega concerti dove tu vai a vedere fondamentalmente un ologramma, però è pieno di milioni di persone che vanno a vedere un ologramma tutti insieme con i loro corpi e il loro sudore, la loro umanità, e quindi è buffo, perché a un certo punto se secondo me sfruttato in una maniera intelligente e interessante, tu puoi partire da appunto un qualcosa di che ti dà anche un'opportunità come questo di appunto avere varie identità e sfruttare quello che la tecnologia ti dà per poi però ritornare nel reale, nella relazione più corporea. Sì, e tra l'altro mi fa sorridere questa cosa che hai detto, ma prima vabbè, anticipo questo, perché io ho appena finito un libretto che uscirà il prossimo anno per Einaudi sui virtual influencer, che sono in fondo il passaggio ulteriore, cioè degli influencer completamente costruiti a computer sulla base della somma di dati umani, in cui si costruisce fondamentalmente una specie di eugenetica per digitale, in cui si costruisce la virtual influencer, soprattutto donna, perché ovviamente poi c'è anche tutto quel discorso, ci entrerebbe anche in quel discorso lì, perfetta, con cui le persone tendono a interagire quasi di più rispetto agli influencer in carne e ossa, e c'è tutto un aspetto, quello anche lì evidenzia la complessità dell'essere umano, perché poi i virtual influencer dicono di essere virtuali, cioè non c'è il fraintendimento, e come le idol, le persone sanno di seguire qualche cosa che è stato completamente costruito computer, con delle caratteristiche che devono essere molto attrattive. E quindi quello mi faceva sorridere, proprio perché ormai ci si muove. Oppure un altro aspetto su cui io mi sono soffermato da un po' e mi fa sorridere, però c'è anche degli aspetti che dico, mamma mia, oggi si fanno gli ologrammi dei cantanti deceduti, ci sono una marea di cantanti deceduti che continuano a fare tour sotto forma di ologrammi, o i duetti tra i cantanti vivi e i cantanti morti, che anche questo diventa, da una parte infatti fa sorridere, però a volte mi dico, ma è trasformare un giocattolo fondamentalmente una persona vera che ha vissuto, perché per trarre anche lì dei guadagni, per attirare l'attenzione, tu prendi l'ologramma di un morto, lo fai cantare con il vivo, la gente è interessata da questa curiosità. Mamma mia, però anche questo è indice della paura della morte, della paura delle cose che finiscono, non accettare fondamentalmente che quando si muore le cose si vanno va avanti. In questi giorni, adesso parlando un po' a random, poi vado anche nella prima cosa che hai detto, mi ha fatto molto sorridere, l'ho trovata anche molto intelligente, molto indicativa questa cosa. Qualche giorno fa i Kiss, gruppo hard rock strafamoso, hanno detto che diventeranno degli avatar immortali. Ma nella spiegazione, la spiegazione che danno, secondo me è veramente una spiegazione indicativa, perché il chitarrista dice: abbiamo costruito questa band in questi 50 anni e non può finire così, di conseguenza bisogna andare avanti. E insiste su questo punto: noi ci abbiamo messo tutti questi decenni, dobbiamo proseguire. E questo è anche un segno di come è fatta oggi la società, di non accettare che poi moriranno anche i Kiss, ci saranno altre band che li sostituiranno, e va bene così, il bello di stare al mondo è quello, che le cose finiscono. No, bisognerà avere gli avatar dei Kiss che continueranno a riprodurre musica, chissà poi come sarà riprodotta la musica dei Kiss a livello artificiale. Questo è un aspetto che dice tanto della società odierna, cioè noi non vogliamo accettare che le cose finiscano, bisogna prolungarle, oppure non accettiamo anche gli esseri umani con le loro fragilità, allora costruiamo degli esseri umani perfetti. E qui mi ricollego un po' alla prima cosa invece che hai detto della multidentità, che anche questo secondo me invece è l'aspetto interessante, così poniamo negatività e positività, mettiamo in doppia luce la cosa. Io appunto ho una formazione filosofica Adesso non voglio entrare in cose troppo tecniche, però nella filosofia occidentale una delle cose classiche che vengono dette, con qualche eccezione, è che noi siamo delle identità soggettive dure e pure, cioè un'unica unità. L'idea, quando gli studenti vengono formati in filosofia, hanno l'idea che ciascuno di noi sia questa identità unica, forte, senza appunto aspetti multipli. Qualcuno invece ha negato questa cosa, ma sono pochi. Le tecnologie digitali in qualche modo in questo mettono in luce quanto sia stupido in fondo questo modo di pensare. Noi in realtà non siamo questo tipo di unica identità, ma molto banalmente ciascuno di noi, quando nasce, cresce e man mano va avanti nel corso del tempo, cambia in continuazione. Non siamo mai uguali a noi stessi, perché fondamentalmente le esperienze comportano delle trasformazioni. Ma oltre a quello, anche senza seguire il percorso temporale, ciascuno di noi ha mille sfaccettature, e queste mille sfaccettature non implicano il fatto di essere incoerenti o di essere appunto persone che in qualche modo dicono il tutto il contrario di tutto, ma proprio perché ciascuno di noi è un'entità molto complessa, con caratteristiche molto complesse. Ed ecco che quindi, se le persone riescono a utilizzare i prolungamenti digitali delle proprie identità per sottolineare questa multipla identità, ecco che, come dicevi tu, se questa cosa venisse utilizzata come un gioco, come mettere in luce una propria creatività, quello è un aspetto positivo, perché abbiamo degli strumenti con cui possiamo sperimentare, mettere in luce le nostre multiple caratteristiche. E questo, secondo me, è uno degli aspetti. Ad esempio, adesso parlando proprio random, una cosa che viene sottolineata, ad esempio, nei videogiochi: i videogiocatori utilizzano i loro avatar anche per sviluppare delle prerogative che spesso tengono nascoste o che hanno paura di sviluppare, e ci sono ormai tanti studi di natura psicologica che evidenziano quanto questo faccia bene soprattutto a determinate forme di identità di persone magari più timide, più introverse, di utilizzare appunto il proprio avatar per sviluppare delle caratteristiche che non riesce a sviluppare nella dimensione offline. E quello è certamente un aspetto positivo, se curato, se in qualche modo viene messo in luce con una certa intelligenza. Questo è secondo me stimolante. Tornando ai porcospini, quindi alle relazioni, alla giusta distanza che dicevamo, no? Ecco, in che modo, se questa giusta distanza può essere raggiunta attraverso il buttarsi in rete, cioè il buttarsi in digitale e il frequentare il mondo digitale? Se e come? È molto complesso, nel senso, adesso per collegarmi al contenuto del libro, durante la pandemia abbiamo visto forse tutte le grandi difficoltà. Allora, da una parte è stato positivo, perché la pandemia ci ha permesso di esprimere anche le nostre paure, le tecnologie ci hanno permesso di esprimere le nostre paure in una fase storica in cui siamo rimasti colpiti da un fenomeno che non ci aspettavamo, e quindi l'espressione di noi stessi attraverso gli schermi è stato di grande aiuto in un momento in cui ciascuno era isolato nelle proprie abitazioni. Prima si faceva riferimento alla DAD, ma non solo, abbiamo messo in luce anche in lì. Sono emerse tanti aspetti creativi molto interessanti, si sono fatte sperimentazioni di concerti virtuali, io preferisco, faccio parte di quelli che preferisce i concerti in presenza, però è stata anche quella una sperimentazione interessante, forme di teatro a distanza, si sono create veramente tante situazioni molto, molto interessanti da un punto di vista creativo. Dall'altra parte però c'è stato anche tutto quell'aspetto che ci ricordiamo molto chiaramente, dei conflitti tra chi era a favore dei vaccini e chi era contro, con questi litigi continui e costanti che hanno accresciuto la difficoltà e la fatica che stavamo vivendo, e abbiamo visto di tutto. Da un certo punto di vista in quella fase lì è emerso di tutto, ogni tipo di persona esprimeva delle cose che creava dei dibattiti, veramente un rumorio di fondo che ha anche appesantito fortemente quella fase, perché credo che in quella fase se ci sono stati d'aiuto, tanto per cambiare, da una parte ci sono stati d'aiuto i social, dall'altra hanno appesantito fortemente una situazione di grande criticità. E quindi rispondere un po' alla tua domanda è difficile, nel senso che scelgo la scorciatoia, quella un po' più semplice, ma che è anche un po' una cosa che si dice, che è facile a dirsi, difficile a farsi, che bisognerebbe fare molta più educazione al modo di esprimersi online fin dalle prime fasi di crescita. Ad esempio, bisognerebbe che nelle scuole, invece di creare lo spauracchio dello smartphone e del digitale, di prendere coscienza che tanto quello strumento c'è, e quindi capire che il fatto che noi ci esprimiamo in un certo modo ha degli effetti e delle conseguenze sulla nostra vita, ma sulla vita degli altri. Quindi quella classica frase che si dice dell'uso consapevole dello strumento, che ripeto è una scorciatoia questa un po' paracula, nel senso che è facile dirlo, è una cosa un po' del volemos e bene, e poi uno dice sì, però poi è difficile da farsi, infatti è difficile da farsi, però secondo me il punto chiave è avere una consapevolezza di non demonizzare questi strumenti, di non demonizzare questo uso, prendere coscienza che comunque, questo va sempre sottolineato, noi facciamo uso di strumenti datici da società private che sfruttano le nostre debolezze, questo è un elemento imprescindibile che va tenuto conto, e su cui è anche difficile uscirne, quindi anche una democratizzazione della nostra produzione di dati non è facile, non so quale potrebbe essere una via alternativa, ma questi sono prodotti fortemente capitalistici nel senso più radicale e più appunto smaliziato possibile. Sulla base di questo, però, certo che se si elimina la demonizzazione, si cerca in qualche modo di creare dei percorsi in cui ci si rende consapevoli che ogni gesto che facciamo online ha delle conseguenze, forse tra qualche decennio, tra qualche anno, si spera, ci sarà un utilizzo un pochino più ragionato di quello che facciamo, e quindi si raggiunge quella moderata distanza reciproca, quella moderata distanza di cui parla Schopenhauer. In fondo, ecco, mi viene da dire, da pensarci, che in fondo adesso i social esistono già da un bel po' di tempo, diciamo l'epoca dei social, che poi c'erano già i social prima, ma l'epoca dei social di solito viene indicata con la nascita di Facebook, però ripeto, è un po' più di complessa di così, però diciamo che negli ultimi 15 anni, anche in questi 15 anni, abbiamo comunque imparato un po' a limare i nostri comportamenti, perché se uno ci pensa, qualche cambiamento relazionale c'è stato nel corso del tempo. Diciamo che bisognerebbe lavorarci tantissimo su, in modo tale che se questo diventa il quotidiano da qui all'eternità, da qui man mano che andremo avanti, bisognerà far sì che riusciamo a gestirli in una maniera diversa da come in fondo li gestiamo. Ma sì, io in una nota di ottimismo mi viene anche da constatare che, per esempio, citavi prima la pandemia, quando c'è stata la pandemia è vero che ci siamo per forza di cose buttati tutti sul digitale perché non potevamo fare altro, ma quando è finito il lockdown la gente proprio aveva una voglia infinita di corpi, perché secondo me quando poi sei portato a un abuso, anche un eccesso di immaterialità e di relazioni surrogate, poi a un certo punto io voglio sperare che ti venga anche proprio la nausea, e che a un certo punto hai anche bisogno di ritrovare quella relazione che invece avevi un po' perduto. Chissà se sarà così. Sicuramente è andata meglio di rispetto a quelli che dicevano non torneremo mai più come prima. Io mi ricordo ad aprile del 2020, ormai i bar saranno sempre vuoti, i locali saranno vuoti, non torneremo mai più come prima. Ma per fortuna non è stato così. Però un fatto è quello, bisogna dire, anch'io che cerco di guardare il lato ottimista e non mi piacciono i luoghi comuni, però purtroppo bisogna dire che non è così sbagliato quello che spesso viene sottolineato. È vero che c'è una tendenza a isolare, c'è una maggiore tendenza a isolarsi. A me, per esempio, lavorando con gli studenti universitari, a me è capitato spesso domande che mi mettono anche in difficoltà nella risposta. Una mi è venuta in mente perché questa mi viene spesso in mente perché mi aveva colpito una studentessa che mi dice: ma qual è il problema se io ho una relazione sentimentale o addirittura sessuale con una persona che non vedo mai, mediata solo dagli schermi? Se questa cosa mi fa star bene, qual è il problema? E io appunto non mi viene da dirgli se questa cosa ti soddisfa e ti fa star bene, sono il primo a dirti è giusto, se ti dà soddisfazione va bene, non ti vengo a dire quelle frasi di nuovo alla Galimberti, alla Crepè, no, questa cosa qua è negativa, una volta si viveva meglio, tutte quelle cose lì. Però certo è evidente che lì c'è una perdita, cioè non, noi siamo fatti un determinato modo, per cui come siamo qui ci guardiamo negli occhi, sentiamo i nostri odori, gesticoliamo, questo è un aspetto fondamentale del nostro modo di essere. Quindi è vero che per fortuna non è vero, gli apocalittici che quando dicevano non torneremo mai come prima, non è vero, però è anche vero che c'è una tendenza a eliminare gli imbarazzi naturali che nascono, perché comunque c'è spesso un imbarazzo nel contatto fisico, e quindi scegliere la scorciatoia degli schermi. E su questo, secondo me, di nuovo, bisogna lavorarci con quell'attenzione che non deve finire nel prendere la strada dei Galimberti e dei Crepè, ma dall'altra parte anche comunque tener conto che la fisicità è importante. Sì, come c'è una, ma penso sia anche una questione produttivista, nel senso che come si sopprime la noia, come si sopprime tutta una serie di cose che sembrano un in più inutile, e si cerca di saturare, per esempio, ogni centimetro di tempo libero o di tempo, tu lo devi saturare di informazioni. Se sono alla fermata dell'autobus, non è che sto a annoiarmi guardando il cielo, ma devo guardare informazioni perché così ho la sensazione che non sto sprecando il tempo. Quindi c'è chiaramente un'ottica anche produttivista, credo, in questo. E allo stesso tempo anche nel sopprimere la fragilità, nel sopprimere tutta una serie di cose, l'imbarazzo, la difficoltà anche relazionale, io posso in qualche modo svicolare e essere comunque produttivo, cioè essere comunque una persona efficiente. Più o meno. So. Sì, sì, sì, assolutamente. Condivido. E non lo so, ci sono un po' domande, cose. Vieni al microfono così ti sentono anche. E niente, a me una cosa che mi veniva in mente era il senso, cioè il ridicolo della memoria digitale. Cioè, ad esempio, abbiamo citato Berlusconi, a me una cosa che mi è sempre venuta in mente, io alle medie, anche al liceo, ho studiato Cavour, quando tra 100 anni studieranno Berlusconi, cioè io Cavour l'ho letto sul libro, quindi ho proiettato la sua faccia in un libro, no? Questi vedono i video di lui che fa le corna e tutte queste cazzate qua, cioè avrà un ruolo il senso del ridicolo nel mescolarsi a memoria digitale? Questo perché, ad esempio, una cosa su cui non sono del tutto d'accordo che hai detto, cioè, ad esempio, cioè, l'aspetto della memoria digitale e la obsolescenza tecnologica non coincidono, secondo me, del tutto. Cioè, ad esempio, io sono un appassionato di musica, i supporti della musica in qualche modo ritornano, ad esempio, almeno nella loro breve storia tecnologica. Mentre, cioè, quindi nel senso, ho la sensazione che l'abuso del recording di qualsiasi cosa che facciamo, questo ce lo teniamo, o quantomeno da qualche parte rimanga, e in questo senso del lasciare una memoria per sempre, qual è secondo te, se esiste, l'impatto del ridicolo? Diciamo che, vabbè, prima la cosa dell'obsolescenza tecnologica, io la facevo riferimento soprattutto al fatto, per dire, come è successo a MySpace, un errore in un passaggio da un server all'altro ha determinato l'eliminazione di milioni di profili. E ad esempio oggi si dibatte molto, di nuovo sempre in relazione al ricordo del fine vita, sul fatto che Google ha stabilito che dopo 2 anni di inattività del suo account eliminerà gli account di Google, e questo significa eliminare un quantitativo di ricordi, di immagini fotografiche, via dicendo. Infatti c'è tutto un dibattito su come cercare di evitare questo. E quindi il problema dell'obsolescenza è più sul fatto di prendere coscienza che magari soprattutto sui profili social su cui abbiamo un controllo molto limitato possono fondamentalmente poi farci perdere delle informazioni perché non le abbiamo salvate. Già oggi una cosa curiosa, perché quella è molto curiosa tra l'altro, perché non credo che si possa, ammetto che ci devo un po' indagare ancora sopra studiando un po' questa questione. Ho notato che che i profili degli utenti deceduti da oltre 10 anni, per esempio su Facebook, non ci sono più. E non questa cosa qui, non so tra l'altro se si potrebbe, per regolamento si può essere fatta. Cioè questa è una cosa che devo approfondire un po' a livello di studio, il perché avviene questa cosa. Quindi il problema è un po' più quello rispetto ad altre forme che magari poi sopravvivono. La questione del senso del ridicolo è interessante, in realtà è molto interessante perché... Cioè, ad esempio, scusa, un altro esempio, la quantità di morti mentre si fanno un selfie, i Darwin Awards, questo concetto qua, però è molto legato al numero di, cioè al fatto che ti registri mentre fai una cagata di mortale. No, è vero, cioè, da un certo punto di vista, questo in realtà è un'osservazione molto interessante, probabilmente mi verrebbe da pensare così, che forse ci sarà più il senso del ridicolo nello studio di queste epoche storiche qui rispetto al passato, che uno si basava su dei racconti. Esatto, Mr. Obama, tutte queste robe terrificanti. Ma già, ad esempio, mi viene in mente, adesso ho letto recentemente un libro che appunto ho avuto il piacere di presentare, di questo studioso del mondo russo, Giampiero Piretto, che ha scritto un libro sui funerali russi, lui si chiama L'ultimo spettacolo, e perché lui voleva evidenziare fondamentalmente il fatto che nella società di Putin, nel governo di Putin, si tende a riprendere una spettacolarizzazione dei funerali che erano tipici dell'epoca di Stalin. Questa è un po' la sua teoria. Però al di là della teoria, già ad esempio i funerali di Stalin, i funerali di Lenin, ci sono oggi, disponiamo di documenti su YouTube, si trova di tutto da questo punto di vista, e si vedono dei comportamenti, anche in quel caso lì abbastanza, ci sono delle cose molto ridicole su dei passaggi, eccetera. Quindi sì, probabilmente tutto quello che è registrato a livello audiovisivo e quello che rimane ci porterà forse ad avere più senso del ridicolo. Bisogna vedere se poi questi aspetti ridicoli non vengano nascosti. Questo può essere la famiglia Berlusconi che fa in modo che certi documenti scompaiano. Emilio Fede lo nascondiamo completamente, non lo so. Sì, però mi viene in mente che per esempio Enea, cioè non è che c'è il senso di ridicolo su Enea, cioè no. Enea, c'è una narrazione che è quella potente, quella era un eroe, punto, fine, cioè, nessuno gli verrebbe in mente di ridere, no. Perché Enea in realtà è cascato dalle scale, una volta ha fatto una cosa. Il senso di ridicolo può essere anche della noia, ad esempio su Kiss, cioè appunto, no? Uno, cioè te devi sentire calla per dire che il tuo... la tua produzione artistica durerà per sempre, cioè mentre la fai, la lasci andare, magari dura per sempre, cioè, però è proprio un concetto che è destinato a diventare ridicolo, cioè è la musica di tuo padre, dicevo, cioè, è destinato proprio a quel senso di... perché di obsolescenza proprio secondo me di ridicolo proprio perché prossimo. No, no, è interessante, anzi può diventare anche un elemento che condiziona poi la ricezione veramente degli eventi. Sì, sì. Sì, no, volevo dire una cosa veloce, ma forse nella scala più ridotta, cioè se non è il funerale di Stato, ma è magari il cittadino di oggi, forse c'è un elemento di classe ancora importante. A me mi sembra, per esempio, cioè ascolto alle volte Radio 24, c'è questa pubblicità che ricorre da un po' di anni. Ci sono informazioni online su di te che ti danneggiano e si rivolge direttamente agli imprenditori, cioè tipo devi aprire l'azienda nuova e magari in passato hai fatto un fallimento oppure c'è una molestia, vediamo se si può cancellare, ci chiami, si fa l'analisi. Cioè questa cosa è al servizio di chi deve fare un certo ruolo dentro la società oppure degli elementi che sono socialmente oggi chiaramente accettati, che ne so, il revenge porn basta una segnalazione e da tutte le parti, al di là dell'elemento di classe, cioè però a meno che non sia socialmente accettato in modo lampante, mi sembra ci sia ancora nella questione privata un elemento in questo senso. Sì, tra l'altro è una cosa che a me aveva incuriosito, perché questa cosa, c'erano delle affinità. Uno scrittore serbo, Danilo Kiss, nel 1983 aveva scritto un libro, l'Enciclopedia dei Morti, e aveva immaginato l'esistenza di una biblioteca, ovviamente fantasiosa, in cui si conservavano i ricordi minuziosi di tutte le persone che non vengono ricordate nella storia dell'umanità, proprio per dare una memoria a chi fondamentalmente non ha un ruolo di potere, e tanto che si parlava di archivi del non archiviato. E cioè, io per primo mi è piaciuto riprendere quella cosa per applicarla ai social media, dicendo i social media in fondo inizialmente hanno dato spazio, ci danno spazio per fondamentalmente creare una memoria che non resterebbe in loro assenza, perché fondamentalmente ciascuno di noi non ha quell'importanza tale da rimanere nel mondo. Ed è anche un discorso che si lega a tutto l'ambito della disintermediazione, ci sono tutti questi dibattiti. Quindi da un certo punto di vista può anche darsi che rimanga anche qualche cosa a prescindere dalla distinzione di classe sociale o dai ruoli. È anche vero quello che sottolinei, che come sempre succede, che le persone di potere possono avere delle agevolazioni fondamentali a far sì che resti quello che deve restare e venga meno quello che deve venir meno, e che quindi tanto per cambiare si reiterino sempre le stesse situazioni, per cui fondamentalmente resta quello che deve restare e non resta quello che non vogliamo che resti. Quindi su quello io sono forse un pochino più ottimista, nel senso, a pensarci, secondo me il lato positivo che comunque ciascuno possa lasciare, che ci possa rimanere una traccia anche significativa di persone comuni che prima non avevano invece degli spazi. Io su quello tutto sommato sono convinto che possa esserci di più questa apertura. Sulle cose come dicevi tu, o su degli aspetti che vengono considerati maggiormente rilevanti, il revenge porn e tutto, certo che poi entra un'incidenza sociale significativa. Ma anche facendo adesso, sempre rispondendo a random, ma poi essendo appunto dopo cena è più facile fare le cose, ma anche il transumanesimo, per esempio, che mira all'immortalità, anche quello è un fenomeno per ricchi. Cioè una delle cose che appunto rende triste un po' il transumanesimo è che vogliono un gruppo di ricchi americani che cerca di studiare il modo per rimanere vivo per sempre. Cioè a loro non gliene frega niente di donare l'immortalità all'umanità. Loro dicono: come posso rimanere io ricco, potente, rimanere nel mondo presente? È un po' quello, certamente un po' anche quello si riverbera all'interno dei social, però secondo me c'è anche la possibilità un po' di scardinare questa cosa, non lo so. Sì, c'è anche l'opposto, nel senso che c'è anche il fatto che a volte invece tu vorresti essere dimenticato, cioè questa cosa non è possibile. Cioè che a volte magari anche alcune cose che hai fatto, revenge porn è ovvio, ma anche altre cose, anche di diverso tipo, cioè tu magari vorresti che, cioè magari ho fatto una cazzata 10 anni fa e verrò ricordato solo per quella, insomma, brutto. proposito di questa immortalità, no, che si ricerca attraverso le immagini, mi viene in mente due cose. Una è quella che già il cinema aveva già reso questo già all'inizio del Novecento, no? Noi abbiamo le grandi star del cinema che sono sopravvissute, sono diventate, diciamo, immortali grazie al cinema, no? A iniziare dalle star degli anni 20, 30, ora mi viene in mente Rodolfo Valentino, oppure altre star che non mi vengono in mente. Mi viene in mente un'altra cosa, l'invenzione del dottor Moreau, quando un naufrago arriva in un'isola e trova gli ologrammi o comunque le proiezioni, questa invenzione del dottor Moreau che aveva reso immortali dei gesti e delle situazioni che si ripetevano all'infinito. Mi sembra un po' che alla fine il social possa diventare questo, cioè una scatola senza contenuto in cui le immagini, prima parlavi degli ologrammi, no? Le immagini si ripetono senza però avere ridarci l'autenticità o comunque quello che è realmente la vita delle persone, no? Oppure mi viene in mente alcuni scrittori cyberpunk che avevano postulato che ci potevano essere degli non avatar, loro li chiamavano Oruba, ora non mi ricordo il nome, che deriva da, poi dal voodoo e dalla tradizione nigeriana che poi si era trasmessa in America centrale. Quindi cioè, tutto questo alla fine che cosa riporta? Riporta il fatto che comunque sia diventa un'immortalità fittizia oppure diventa l'immortalità per i poveri, mentre quella del transumanesimo di cui parlavi prima diventa l'immortalità per i ricchi. Infatti noi pensavamo che Berlusconi fosse clonato e che non sarebbe morto mai, no? Era una delle cose che si pensava, perché aveva sostituito via via le parti del suo corpo, no? E poi rimane il discorso appunto che l'immortalità che ricercano i transumani è quella di un'elite di ricchi che possono sostituire le parti del loro corpo o comunque trovare il modo per rigenerarsi o altre cose che abbiamo visto nei film di fantascienza per tanto tempo, che potrebbero via via diventare sempre più reali. Poi forse questo aumenterebbe tra l'altro il divario appunto tra un'elite di oligarchi, di pochi oligarchi, e il resto dei miliardi delle persone che sarebbero appunto avrebbero questo surrogato anche di immortalità. A me spesso mi capita di imbattermi nei profili di persone che conoscevo che sono morte. A me crea una sorta di quasi di non so bene, di forse non è neanche imbarazzo, di qualcosa che comunque è anche se quel profilo c'è ancora, a me non viene di andarci. Perché penso che quella persona non c'è più e che non è più attivo o lo attiva qualcun altro invece sua. E allora lì può essere il ricordo di una persona che ha fatto qualcosa di importante per qualcun altro, eccetera. Ora non è una domanda vera e propria, però erano una serie di riflessioni che mi erano venute in mente su questo discorso dell'immortalità che c'è sempre stata. I faraoni facevano le piramidi, poi ci sono stati i mausolei e poi eccetera eccetera, e qui siccome è un desiderio comune, diciamo, a tutti quanti gli esseri umani, ora forse è più a portata di mano il surrogato, come si diceva prima, ma alla fine questo non crea che non crea in effetti neanche un ricordo, che poi forse resta poi alla fine tra le persone che hanno conosciuto quella persona o se c'è stata una storia in una narrazione, in un libro di storia o in un racconto. Grazie. Delle cose che dicevi, innanzitutto mi è venuto in mente un aspetto, tu facevi l'esempio dei grandi attori del cinema che sono appunto rimasti, però anche quello è interessante. Adesso mi è venuto in mente, più che un attore, un musicista, Jim Morrison. E come tutti quelli come Jim Morrison morti molto giovani, è interessante il fatto che una specie di consacrazione dell'eterna giovinezza, cioè Jim Morrison noi ce lo ricorderemo sempre bello, giovane, probabilmente se lo vedessimo, se lo immaginassimo invecchiato, questa cosa non ci piace, perché noi dobbiamo mantenere l'icona di Jim Morrison, Janis Joplin, tutti questi musicisti morti giovani con quell'immagine eternamente giovane. E già lì è interessante in quel tipo di società che le riproduzioni audiovisive, le riproduzioni delle immagini realizzano in fondo questo desiderio di rimanere eternamente, non solo immortali nelle immagini, ma anche immortali come eternamente giovani. E quindi anche il dibattito del fatto del morire giovane come consacrazione dell'eterna giovinezza era un aspetto secondo me interessante e che oggi comunque tendiamo a sviluppare costantemente con le nuove tecnologie. E l'altro aspetto, sì, soprattutto delle cose che hai detto, i profili dei morti secondo me creano molti effetti a livello emotivo. Anche questo è un po' una novità. La novità sta nel fatto che fino ad ora noi non siamo abituati ad avere dei luoghi, chiamiamoli così, appunto questi luoghi in cui c'è così tanto materiale della persona che non c'è più. Possiamo leggere un sacco di parole, vederli come si muovevano, appunto le registrazioni audiovisive. E questo, pensiamo anche al di là della dimensione social, quella privata, su WhatsApp. Oggi è un grande problema per l'elaborazione del lutto il profilo WhatsApp, perché lì è un rapporto intimo dove non è mediato dal pubblico, e tantissime persone ammettono di continuare a scrivere al morto su WhatsApp, perché lì, mamma mia, è terrificante la sopravvivenza, tra virgolette, di quel profilo. Uno, mettiamo un esempio banale, due persone che avevano un rapporto sentimentale, uno dei due muore, l'altro ha centinaia se non migliaia di messaggi privati, quindi con un linguaggio magari specifico della relazione. Poi ci sono i messaggi vocali, ci sono le immagini fotografiche. È una cosa molto pesante sul piano emotivo, perché quello è veramente un legame che resta, perché poi noi abbiamo l'impatto, quando noi rileggiamo dei testi scritti, per esempio, tendenzialmente li trasformiamo come qualcosa di eternamente presente, perché l'effetto della registrazione è quello di darci l'idea che quella scrittura sia stata fatta magari il giorno prima. E quello è veramente molto pesante, sia nei confronti delle persone che conosciamo che anche di quelli che conoscevamo meno, vediamo i profili sui social. Quindi da una parte, e infatti è molto difficile secondo me riuscire a relazionarsi con questa cosa, proprio per tutti gli effetti che producono. Quella è un po' la novità dell'epoca odierna, che non avevamo mai avuto così tante persone morte che restano. Poi è ovvio, come dicevi tu, è tutta la storia dell'umanità che cerca di trovare una soluzione alla morte da sempre, dai tempi di Gilgamesh. Gilgamesh perde il suo migliore amico e siamo già di nuovo lì a cercare di come riportarlo in vita, o comunque di mantenerne il ricordo. Patroclo e Achille, tutta la storia dell'umanità è sempre segnata dal cercare di trattenere il morto. Oggi certo le tecnologie offrono degli strumenti che vanno ben oltre all'immagine fotografica, al dipinto o anche solo alla riproduzione di una canzone o di un'immagine audiovisiva. Io non lo so se te l'hai mai visto un documentario che si intitola Into the Eternity. È forte. Ora io l'ho visto tempo fa, quindi potrei scappellare qualche particolare, no? Però è la storia di un deposito di scorie nucleari ed è il problema che ci hanno questi scienziati, nel senso che le scorie nucleari decadono tra migliaia di anni, no? Questo è molto grosso e sta da qualche parte su in Nord Europa, non mi ricordo se in Finlandia, sì. Hanno fatto dei grossi buchi e hanno toccato un sacco di scorie anche di altri paesi, lo fanno come business. E allora si sono posti il problema a dire, certo, però gli restiamo una bella eredità al futuro, no? E quindi detto, dobbiamo trovare il modo di comunicare che questo luogo, anche tra mille anni, è pericoloso. E quindi si sono posti questo problema della conservazione della memoria. E la prima cosa che hanno scartato è qualsiasi forma di cosa digitale. Poi hanno iniziato a scartare tutto, cioè adesso non va bene un cazzo, sostanzialmente noi non ce la facciamo. E sono arrivati che l'unica cosa che secondo loro era credibile erano queste due opzioni. La prima, ci disegniamo sopra delle cose che sono simboli di morte. Perché hanno detto, comunque se io le trovavo nelle caverne, anche se non sapevo chi l'aveva fatte, se vedo dei simboli di morte capisco che qui c'è qualcosa che ha a che fare con quello. E l'altra cosa hanno detto, noi facciamo una specie di setta che di generazione in generazione ha il compito di dire che in quella roba lì c'è un problema grave, cioè che è questa storia, e facciamo in modo che se l'umanità tra mille anni sarà sopravvissuta, noi questa cosa ce la rimandiamo da generazione in generazione in maniera orale, perché questa era l'unica cosa credibile che si sono riusciti a inventare. Secondo me questo era interessante quando noi ci proviamo il problema della conservazione della memoria, perché se la scienza si pone concretamente il problema della memoria, la scienza non si fida della scienza. E quindi quando noi diciamo, ah, perché il digitale sarà, ma anch'io da tecnico sistemista, cioè se tu mi dici, ah, ma perché io così sopravvivo su Facebook, io ti guardo, ma che cazzo dici? Cioè, nel senso, ma veramente tu pensi che tra 50 anni non ci sarà un sistemista di Facebook che ha sbagliato a fare il comando e cancella tutto? Ma dove vivi? Cioè, nel senso che solo se sei Facebook ci credi, no? Perché lo pubblicizzi, ma poi è evidente che non ci credi neanche te. Anche perché, cioè, i miei dati, fino a che hanno un valore, e chiaramente ti diranno, ah, noi li conserveremo per sempre, no? Come Google li accumula, no? Ma quando perdono di valore? Cioè, io che cazzo ne so se tra 50 anni qualcuno gliene fotto un cazzo del mio profilo? E quindi tendenzialmente, cioè, questa cosa dell'immortalità è più, forse, cioè, sì, rappresenta un bisogno psicologico, una possibilità della nostra epoca che ci fa presagire, ah, potremmo. Però se io poi lo guardo in maniera strettamente da realista cinico, cioè io ti voglio dire, ma che cazzo dici? Cioè sta cosa non si può fare, cioè sicuramente non sopravviverai su Facebook, cioè non ti do 20 anni, cioè capito? Forse 30, ma non ci credo, comunque non 1000, cioè una cosa che non si avvicina neanche all'immortalità, perché proprio lo scienziato realista non si fiderebbe dello scienziato che dice quella cosa, cioè ti direbbe, ma va dai. Cioè, non l'abbiamo mai fatto, cioè nel senso che le cose che c'è noi ci arrivano dal passato sono botte di culo, cioè già noi abbiamo, che ne so, le iscrizioni sulle cose di sulla pietra, ma perché l'hai fatta sulla pietra? Perché no? Perché la pietra dura 1000 anni, ma un CD dura 1000 anni? No, è più probabile che sopravviva un vinile allora, forse, no? E anche là in termini di memoria, ma forse se mi faccio le mie foto e mi faccio un album, magari tra 60 anni qualcuno lo ritrova, ma se le mie foto le metto tutte su Facebook, cioè è evidente che non duro 20 anni, credo, cioè almeno io ti direi di no, poi magari. Ma infatti quello che dici secondo me sottolinea un problema, allora innanzitutto questo problema dei profili così è più un problema del presente, del qui e ora. È ovvio che oggi una novità è appunto, per esempio, per l'elaborazione di un lutto, oggi avere WhatsApp con tutto questo tipo di cosa crea dei problemi, ma ci sono persone che tirano fuori delle enormi manie, delle situazioni di grande alienazione per questa cosa. In prospettiva sicuramente hai ragione, man mano che si va avanti, e anche questo in fondo è affascinante dell'epoca che stiamo vivendo, è che poi tutto questo scompare. Io penso, mi ricordo quante cose avevo fatto per esempio su Outlook, non conservando, quando ho cambiato computer, tutto quel materiale di Outlook l'ho perso non lo recupererò probabilmente mai più. E diciamo che lì entra poi in gioco la cosa che anche tu detto dopo, che oggi se tendiamo ormai a lasciare le immagini fotografiche, quello che condividiamo online, e a differenza di come si faceva prima di avere l'album fotografico, i ricordi, le lettere scritte, eccetera, demandiamo completamente tutto lì, ecco che poi può restare veramente poco. Quindi ci muoviamo tra l'idea di avere una memoria futura piena di cose dove saremo sommersi di ricordi perché restano i social, e sappiamo, come dici tu, che questa cosa è un po' va un po' presa così, ma chi ci crede che tra... Per dirti, c'è uno studio di Oxford che immagina il numero di profili di utenti deceduti su Facebook nel 2100, ma figurati se nel 2100 ci sarà Facebook. No, ma però quello, ovviamente uno ci gioca un po' su questa cosa perché fa effetto. Questo studio dice che ci saranno da 1 a 5 miliardi di profili di utenti deceduti su Facebook, e quindi questa cosa fa effetto e ne parliamo, però in fondo ne parliamo sapendo che è molto improbabile. Certamente il problema sta nel fatto di come conservare le cose, questo sì, nel senso che se il privato cittadino non demanda tutto al digitale, magari resta molto meno materiale rispetto a un tempo. L'obiezione potrebbe anche essere, ma in fondo noi che cosa abbiamo dei nostri antenati, ciascuno di noi, che ne so, del bisnonno, che cosa ha conservato in casa? Probabilmente quasi niente, quindi in fondo anche a livello materiale non è che resti poi man mano che passa il tempo molto. E aggiungiamo un'ulteriore cosa su quello che dicevi in fondo anche tu indirettamente. Si dà sempre una connotazione positiva al ricordare e negativa al dimenticare, ma in fondo che problema c'è se una volta che noi moriremo non ci sarà più traccia di noi stessi, il mondo va avanti e chi se ne frega di rimanere? Adesso io lo dico, io sono uno che scrive i libri, mi contraddico perché scrivendo i libri ovviamente implicitamente do l'idea di voler rimanere nel mondo, però al di là di questo... In fondo anche pensare di essere dimenticati, di non lasciare tracce, che male che c'è, voglio dire, il mondo va avanti, noi ci siamo superati e va bene così. Grazie.